Un saluto a tutti voi, amici ascoltatori di Radio Ernica. Vi chiederete perché siamo qui all'ingresso della nostra autostrada e sull'Antigolana. Siamo qui perché vogliamo parlare del biodigestore e di cosa significherà in termini di traffico, di gestione del traffico dei camion in arrivo, questo aspetto, che non è secondario, quindi, però abbiamo voluto, come dire, indirizzare la nostra attenzione solo su questo, quindi sulla logistica di questa operazione. Allora amici, questo è il nostro casello autostradale. Chi di voi non conosce questa struttura? Chi di voi non è mai rimasto bloccato qui in questo sito perché magari per un momento si è fermata l'autostrada? Chi di voi non si è trovato in difficoltà rispetto all'uscita di un tir o all'entrata di un tir? Quindi problemi che esistono già al momento. Ma andiamo nello specifico. Da dove arriveranno questi camion? Si immagina che la maggior parte uscirà da lì, uscirà dal casello autostradale di Anagni e rientrerà da quella parte per tornare nei comuni della zona a sud di Anagni. Ma non dimentichiamo anche l'Antigolana. Tutti i comuni della zona nord arriveranno da questa parte, quindi ogni comune avrà la possibilità di conferire in questo modo. Peraltro c'è da dire che in tutta la pratica non abbiamo visto la possibilità di creare delle stazioni di trasferenza, così come il sindaco di Colfelice, Bernardino Don Francesco, pretese che per arrivare all'impianto era necessario attivare delle stazioni di trasferenza, proprio per, come dire, mettere in moto tutta questa serie di automezzi. Non è previsto, tra l'altro la stazione di trasferenza in questo momento di Piglio è ferma per ordine della magistratura a seguito di un'indagine, quindi anche volendo non la si potrebbe utilizzare. Quindi è il caso di dirlo che qui ogni comune verrà a portare e a fare il suo conferimento. Per quanti giorni a settimana? Dipende dai comuni. In alcuni comuni 2 giorni, 1 giorno, 3 giorni, questo non lo sappiamo. Si accumuleranno tutti insieme questi comuni? I giorni saranno identici? Si chiederà di fare dei giorni scaglionati? Anche questo è un altro punto interrogativo. A questo punto ci muoviamo da qui e facciamo il percorso della Via della Monnezza. Amici ascoltatori, siamo partiti, siamo messi nell'Antigolana, questa è l'uscita dell'autostrada, eccoci qua. Come abbiamo detto, qui ci sono attività artigianali, commerciali, qui tra l'altro c'è un bar, molto spesso ci sono camion in sosta, tir in sosta, si fermano chiaramente per andare a fare colazione, a consumare un pranzo. Questo è il ponte che conosciamo bene, si allaga, lo conosciamo anche per questo, è stretto, è basso. Questa è la prima rotatoria, stiamo facendo tutto il percorso naturalmente, la rotatoria, e di qua si va, come sapete, sulla stazione e sulla provincia di Roma, quindi è pensabile che arriveranno probabilmente camion anche da qui, perché il quantitativo di rifiuti, le 80.000 tonnellate, sembrerebbero essere sproporzionati rispetto alla provincia di Frosinone. Questa è la prima parte dell'asse viario, fino a qui insomma sembra di non esserci grande problematicità. Qui tra l'altro questa sosta è del Porchettaro, quindi forse sarà contentissimo, uno dei pochi contenti di questa evoluzione del traffico, perché probabilmente vedrà camion che finora non ha mai visto. E questa è la seconda rotatoria, qui siamo alla seconda rotatoria, qui le cose un po' cambiano perché ci sono delle difficoltà, gli spazi diventano più stretti, tra l'altro questa è una rotatoria che ci porta anche sulla zona delle aziende farmaceutiche, e a questo punto si mette su questa arteria, un'arteria che tra l'altro da quando l'asse attrezzato è stato risistemato, da quando la zona ASI e il consorzio ASI ha pensato a ristrutturare quella quella strada, quell'arteria così importante, è anche utilizzato da un traffico veicolare, come vedete, perché c'è gente che preferisce passare qui in uscita e non entrare in Casilina. Quindi non c'è solo un traffico industriale e commerciale, ma già adesso c'è anche un traffico veicolare. Questo, vabbè, parlando di Monnezza, insomma, questo è un fatto assodato, che qui ci siano delle micro discariche in continuazione. Arriviamo a questo pezzo, un'altra curva, manto stradale abbastanza ovalizzato, qualche buca, e qui iniziamo anche con insediamenti di un certo peso. Questa è una struttura che si occupa di distribuire sulla catena autostradale per la Pavesi. Andiamo ancora avanti e arriviamo, altra discarica. Qualcuno dice che spariranno queste discariche quando si aprirà questo biodigestore. Non so che collegamento può esserci tra le discariche per strada e il biodigestore, comunque non fa nulla. Questa è la prima grossa difficoltà, come vedete. Qui già due camion, due tir, due camion di grossa portata, faticano un po' ad entrarci, devo dire. Ancora un mezzo rettilineo, siamo di fronte, stiamo passando davanti alla ex Eurozingo e stiamo per arrivare al rettilineo che ci porterà proprio a Siderpali. Altra curva, altra situazione, come vedete, abbastanza difficile, altra strada in pessime condizioni, dovuta soprattutto chiaramente al passaggio di questi bisonti della strada. E qui arriviamo alla parte finale di questo asse, quindi a sinistra si potrà girare per andare nel sito che dovrebbe ospitare il biodigestore, ma noi non andiamo subito lì, perché in realtà andiamo a vedere anche un altro punto di approdo a questa struttura. Allora, vedete, questa a questo punto, qui in questo punto si creerà un arrivo di camion in quella direzione, lì praticamente c'è il piazzale, l'eventuale piazzale dell'azienda. Qui ci sono il transito, ovviamente, in entrata e in uscita dall'azienda. Qui ci sono i mezzi che arrivano dall'asse attrezzato, dall'area industriale. Quindi questo è un altro nodo strategico. Ci mettiamo in questa strada che le condizioni sono veramente, veramente pietose. Buche, una strada che presenta grosse difficoltà. Veramente grosse difficoltà. Ogni tanto, io sono uno che ci passa per lavoro qui, ogni tanto mettono qualche pezza, ma insomma anche qui piccole imprese, medie imprese. E qui un altro nodo veramente critico, veramente molto critico, perché già adesso c'è una difficoltà tra un camion e un automezzo. Quando ci sono due tir diventa veramente difficile uscire di qui. E guardate qui il risultato di questa cosa. Guardate qui questa casa che praticamente ripetutamente risistema il muro di recinzione e ripetutamente praticamente il muro si trova in queste condizioni. Quindi ci troviamo nella situazione dove eventuale arrivo dai comuni di questa zona, quindi Morolo, Supino, Patrica e quant'altro, potrebbero arrivare da qui. Eventuale, come dire, uscita, perché i mezzi una volta scaricato potrebbero scendere di qui, quindi qui ci potrebbe essere, come dire, dei tir in arrivo e dei tir in uscita, in una situazione che, come vedete, da un punto di vista strutturale lascia veramente molto a desiderare. Qui è stato creato questo piazzale da poco, probabilmente proprio per favorire una possibilità di girare, di trovare un po' di spazio, perché lo spazio effettivamente non c'è. Riprendiamo il pezzo di strada che abbiamo lasciato, quello malmesso, quello proprio messo in condizioni, diciamo, pietose, perché adesso facciamo l'ultimo pezzo di Via della Monnezza e arriviamo al piazzale. Anche lì, secondo me, ci sono dei problemi strutturali da risolvere. Il piazzale non è molto grande, il piazzale peraltro è utilizzato attualmente anche da chi opera in zona, dai camion, dai tir che arrivano per scaricare, per prelevare, e quindi si fermano lì per in attesa di ripartire, oppure semplicemente per un minimo di ristoro, eccetera. Questo è l'incrocio che abbiamo visto poc'anzi, ecco, qui lo vediamo meglio, quindi veramente difficilissimo pensare a camion che escono, camion che entrano qui e che girano per andare di là e camion che arrivano da dietro. Quindi questa è la situazione. Allora, andiamo più avanti. Questa è la Siderpari. E questo è il piazzale che probabilmente diventerà, probabilmente potrebbe diventare la sede del biodigestore. Come vedete, grandi spazi non ce ne sono. Questi mezzi oltretutto saranno carichi, saranno pieni, goccioleranno, questo umido, l'estate scenderà per terra, questo ci auguriamo di no naturalmente, e non sappiamo ancora se questi mezzi entreranno tutti dentro una volta arrivati qui, perché qualora non riuscissero ad entrare non mi sembra che qui ci siano le condizioni e lo spazio per ospitarli tutti. Da quella parte, qualora qualcuno magari decidesse, come dire, di uscire dall'impaccio di questa situazione che abbiamo visto e di andarsene, da quella parte si entra in una zona abitata, piena di abitazione, e si esce dietro Osteria della Fontana con una immissione sulla Casilina, ma questo ci è stato detto, non verranno utilizzate le vie tradizionali, le vie normali, soprattutto le vie che hanno una densità abitativa. Finisce qui il nostro viaggio. Abbiamo in pochi minuti voluto rappresentare le difficoltà che ci sono pensando a questo notevole afflusso di mezzi pesanti che ogni giorno raggiungerà Anagni per effettuare lo scarico di questi materiali. Abbiamo pensato di dare un contributo in un dibattito molto forte, molto acceso che si sta registrando in città. Si stanno realizzando dei ricorsi al TAR. C'è stata una petizione che è stata firmata, adesso si stanno raccogliendo le firme vidimate dai consiglieri comunali. Cosa succederà non c'è dato di saperlo. Noi abbiamo voluto occuparci solo di questo segmento, quello dei trasporti, che sembra un segmento inferiore, ma in realtà ha molto a che fare con la nostra vita quotidiana, con l'andare al lavoro, con l'uscire, con il camminare, con il vivere normalmente la nostra giornata. Abbiamo pensato di fare questo per voi ascoltatori di Radio Ermica. Grazie.